Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Bisogna avere rispetto dei lavoratori, perché noi non siamo quelli che pagano 1.000 euro per una cena, siamo quelli che con 1.000 euro debbono mangiare tutti i giorni, e fare sciopero vuol dire rinunciare a dei soldi. Allora chi parla e non sa di cosa parla, è meglio che stia zitto e abbia rispetto di chi si batte anche per lui. Questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, nel finale di questa settimana è Maurizio Landini, leader della FIOM, dallo sciopero sociale, il primo sciopero sociale, così è stato definito in Italia, con sotto, avete sentito, uno sfondo di Libertango, di Piazzolla. Manifestazioni sono state oggi in almeno 25 città italiane, caos, scontri, diversi agenti feriti. Insomma, come dicevamo ieri con un sociologo, Magatti, il malessere è piuttosto diffuso, con varie forme. Fra le altre cose vi chiederei stasera se avete voglia di intervenire o con i messaggi al 349-238-6666 oppure nella pagina Facebook di Effetto Notte. Volevo chiedervi se il governo sta dando risposte adeguate a questo malessere, a questo disagio, alle difficoltà che sempre più gente incontra in Italia per vivere decentemente, al di là che le responsabilità siano degli uni e degli altri, ma le risposte che stanno trovando tra legge di stabilità e il Jobs Act, che poi forse è al centro di tutte queste proteste, secondo voi sono opportune, sono le risposte giuste? Rispondete voi con le vostre di risposte e poi man mano approfondiremo questo argomento in particolare questa sera, ma poi ci sono sempre tante cose da raccontare, lo sapete, quindi incomincio riepilogandovi la giornata. Sciopero sociale, la mobilitazione in 25 città, caos, tensioni e scontri, 15 feriti fra le forze dell'ordine. A Roma, Marino contestato a Tor Sapienza sul teatro delle violenze anti-immigrati, lui commenta via il degrado. Crisi, l'Italia resta in recessione, il PIL, prodotto interno lordo, è ai livelli del 2000, persi 70 miliardi in 4 anni, anche la Grecia ci batte. All'Italia, l'Unione Europea dà il via libera all'ingresso di Etihad. Maltempo, nuova ondata dopo la tregua, attesa la piena del Po e del Lago Maggiore. Ministero dell'Ambiente, l'ex ministro Clini a processo per corruzione, avrebbe intascato una mazzetta da 1 milione di euro. Nigeria, gli integralisti di Boko Haram prendono Chibok, città delle liceali rapite, gli abitanti sono in fuga. E per il calcio all'Inter torna Mancini, via Mazzarri, con lui, dice Tohir, possiamo ritornare grandi. E partiamo quindi da questo sciopero sociale che si è sparso con manifestazioni, proteste in 25 città, sciopero generale e sociale del lavoro pubblico e privato indetto da Cobas, CUB, USI e varie altre sigle, per dire no alle politiche del governo Renzi, dell'Unione Europea e no al Jobs Act, alla legge di stabilità e al piano di riforma della scuola. Ci sono stati scontri, dicevamo, a Milano, a Roma, a Padova. Traffico impazzito, mezzi pubblici a singhiozzo, cortei, manifestazioni, sit-in. In 25 città italiane si è svolto così lo sciopero sociale per dire no alle politiche del governo Renzi e dell'Unione Europea. A Milano scontri tra studenti e forze dell'ordine con cariche e lanci di lacrimogeni, petardi, fumogeni contro la sede della borsa. Una decina di feriti tra i manifestanti, oltre a 3 finanzieri. Traffico in tilt anche a Roma, dove si sono avuti momenti di tensione davanti al Ministero dell'Economia, quando un gruppo di giovani ha lanciato uova e acceso fumogeni. Blitz anche al Colosseo, dove i lavoratori di una ditta privata sono saliti sulle impalcature. A Padova scontri davanti all'università tra i partecipanti al corteo e la polizia. Alcuni agenti delle forze dell'ordine, tra loro il capo della mobile, sono rimasti feriti. A Napoli il corteo di manifestanti ha bloccato la rampa di accesso alla tangenziale. Mazze, bastoni, fumogeni e petardi sono stati invece sequestrati dalla Digos su un furgone del gruppo Studenti Indipendenti a Torino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto a Roma non si allenta la tensione a Tor Sapienza, ne abbiamo parlato anche ieri. A sorpresa la giornata si è chiusa con una visita del sindaco Marino nel quartiere. Noi ci concentreremo sul decoro, sull'accoglienza e sulla qualità della vita di questo quartiere, non venendo meno a quello che è lo spirito della nostra città. Promette un impegno serio per Tor Sapienza il sindaco Marino, arrivato nel pomeriggio al centro di accoglienza di via Morandi. Aveva annunciato una visita senza clamore, ma si ritrova assediato da telecamere e residenti che lo contestano al grido di buffone, buffone. Questa volta non ci sono episodi di violenza, ma la tensione nel quartiere resta sempre alta. Nella mattinata 17 minorenni che erano stati trasferiti dal centro di Via Morandi, dopo essere tornati indietro, sono stati convinti dagli assistenti sociali ad andare via definitivamente a causa della protesta dei cittadini. I residenti comunque tornano a ripetere: non siamo razzisti, siamo solo esasperati. Non è razzismo, anzi è un contesto della tutta la situazione. Non è una questione di razzismo che adesso un borghese se vuol fare campagna pubblicitaria e viene a Tor Sapienza. Io aiuterei chiunque, io non ho problemi di quello, ma in un paese dove c'è la possibilità, qui c'è il lavoro per noi, ma come fanno a aiutare loro? Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E siamo sulla politica, sul fronte politico il governo va avanti, non tutta la maggioranza però ha gradito le correzioni chieste dalla minoranza PD e accolte dall'esecutivo. La piazza protesta, la maggioranza si ricompatta sul Jobs Act, accordo alla fine tra PD e la minoranza, a parte qualche caso sporadico, ma anche con il nuovo centrodestra, malgrado la marcia indietro sull'articolo 18, a parere di Maurizio Sacconi. Il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, è soddisfatto del cammino intrapreso. Da ieri la riforma del mercato del lavoro è più vicina, perché il Partito Democratico ha dimostrato la sua lungimiranza, la sua capacità di mediazione, ma senza rinunciare però all'obiettivo di una riforma veloce che estenda le tutele, universalizzi i diritti e faciliti la creazione di lavoro. Tocca al vice segretario PD Lorenzo Guerini rispondere alla CGIL. Per Susanna Camusso i nostri sforzi non bastano, nessuno però li ha fatti finora. La piazza si rispetta, ma ascoltiamo anche le sigle sindacali che non ci stanno. Si schiarisce la situazione poi all'interno della maggioranza. Da parte del nuovo centrodestra il ministro Beatrice Lorenzin esclude i rischi per il governo, mentre Maurizio Sacconi spiega ad effetto giorno che l'accordo è vicino. Ci stiamo lavorando, non è ancora fatto, ma mi pare che ci sono tutte le condizioni per raggiungerlo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Tra l'altro il responsabile dell'economia del PD, Filippo Taddei, oggi ha ricevuto delle minacce molto serie. Allora di poco fa la dichiarazione, l'attestato di solidarietà, diciamo così, di Susanna Camusso della CGIL, che dice: esprimo a nome di tutta l'organizzazione sindacale forte solidarietà a Taddei per le gravi inaccettabili minacce ricevute. Quanto ai dati economici, continuano a preoccupare quelli sul PIL diffusi oggi. L'economia italiana arretra ancora, PIL a meno 0,1% nel terzo trimestre. Poi ne parleremo diffusamente. Comunque i dati sul PIL non sembrano aver stupito Confindustria. Sentiamo il presidente Squinzi al microfono di Valeria De Rosa. I presupposti c'erano già dai mesi scorsi, quindi eravamo ormai preparati, psicologicamente preparati. E speriamo che questo non vada a impattare sul rimbalzo l'anno prossimo. E restano tante aperte le vertenze sul fronte del lavoro. Quanto all'asta di Terni, cioè acciaierie speciali di Terni, durante l'incontro di questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali distensivi tra azienda, governo e sindacati in sciopero ormai i lavoratori da 25 giorni. Sentiamo Maria Antonietta Vicaro dell'UGL Metalmeccanici, intervistata da Livia Zancaner. Gli investimenti si sono in qualche modo allungati sui 4 anni, le conferme sul mantenimento dei 2 forni ci sono e restano in essere rispetto a 1 milione di tonnellate anno previste. Dopodiché la dichiarazione che a me personalmente ha lasciato abbastanza con un minimo di ottimismo in più è che alla fine del percorso l'azienda comunque non intende trattare gli eventuali esuberi come licenziamenti coattivi. Lunedì saremo a Monaco con una delegazione solo sindacale per incontrare il board di ThyssenKrupp, perché vorremmo insomma ulteriori conferme. Quindi martedì mattina ci sarà la ripresa della trattativa. Quali sono per voi i punti fondamentali ancora da trattare? Vorremmo tradurre questa timida fiducia di oggi in aspetti di consistenza vera, in un accordo scritto. E c'è anche il caso della TRV di Livorno, che ha inviato una lettera ai lavoratori comunicando l'intenzione di procedere alla chiusura dello stabilimento. Livorno si fermerà martedì 25 per lo sciopero generale indetto da CGIL, CISL e UIL. Nel frattempo da Firenze arriva però la notizia che il 20 si terrà il nuovo incontro al tavolo del Ministero con i vertici appunto della multinazionale. C'è una notizia che riguarda l'Italia. La Commissione europea ha dato il via libera all'ingresso di Etihad, della compagnia araba, in Alitalia. Lo rende noto un comunicato della Direzione Generale della Concorrenza. La decisione è subordinata in particolare all'impegno di liberare alcuni slot a favore di nuovi operatori sulla tratta Roma-Belgrado. All'estero, in Nigeria, prima le ragazze rapite, ora la città. I terroristi islamici di Boko Haram hanno preso la città nel nord-est della Nigeria, dove il 14 aprile scorso rapirono, vi ricordate, più di 200 studentesse, di cui ancora non si sa nulla. Purtroppo le torri di telecomunicazione della città sono state distrutte, non ci sono più linee telefoniche, gli abitanti sono in fuga, incalzati dagli integralisti. Quindi la situazione continua ad essere sempre più difficile in Nigeria. Torniamo in Italia con la cronaca. Giudizio immediato per l'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini, accusato dalla Procura di Roma di corruzione per un finanziamento da 54 milioni di euro, finanziato dal Dicastero per il progetto New Eden, che riguardava la riqualificazione di una zona dell'Iraq. Il processo è fissato per il prossimo 12 marzo davanti alla seconda sezione penale. E siamo al calcio. Alla guida dell'Inter torna Mancini fino al giugno 2017. Bentornato il nostro nuovo tecnico. Insieme riporteremo l'Inter a essere un top club dell'Europa, così ha detto il presidente dell'Inter, Tohirir. E Mancini, da parte sua, ha commentato: una nuova stimolante sfida. Sono contento di riabbracciare i tifosi neroazzurri. A domani. Forza Inter. Naturalmente, che poteva dire? E adesso, tra poco, dopo la viabilità, come sempre, cominciamo a approfondire i vari argomenti con gli ospiti. Vedevo già alcuni vostri messaggi rispetto a questa domanda che vi pongo. Oggi abbiamo visto quante, ma anche in queste settimane, quanto malessere sociale ci sia sotto vari aspetti. E secondo voi il governo sta dando le risposte giuste? Sono adeguate le risposte attraverso legge di stabilità, attraverso misure varie, dagli 80 euro al Jobs Act, che forse è la cosa che più infiamma le piazze ultimamente? Leggo solo alcuni già dei vostri messaggi, potete mandare sia al 349-238-6666 attraverso SMS oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Donata, molto sintetica, risponde no. Giancarlo, nessuno, si sta solo legalizzando la precarietà. Enrico scrive: forse il 5% delle persone che manifestava in piazza sapeva il motivo per cui era in piazza, gli altri seguono la massa e parlano per slogan senza manco sapere una virgola del Jobs Act. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo guardando altri vostri messaggi al 349-238-6666 e sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Fabio dice: questo, a proposito delle proteste e del disagio, non è solo che l'inizio, se la politica rimane cieca, sorda e muta di fronte alla popolazione. Ma adesso vi riassumo brevemente le notizie più importanti e poi cominciamo a approfondire quella, diciamo, in primissimo piano. Sciopero sociale, proteste, scontri in Italia, la CGIL contro il Jobs Act, contro Renzi, ma c'è l'accordo a proposito appunto della riforma del lavoro col nuovo centrodestra. Marino a Roma, il sindaco contestato a Tor Sapienza, buffone vai via, gli dicono, lui dice via il degrado, intanto tornano al centro di accoglienza, 14 minori che erano stati allontanati erano tornati poi a piedi. L'Italia resta in recessione, PIL ai livelli del 2000. E poi torna al maltempo, il centro-nord, allarme di fine settimana, allerta in Liguria e Veneto e fa paura la piena del Po. Terremoto all'Inter, via Mazzarri arriva Mancini e poi c'è anche questa storia tra Raffaella Carrà e la Cuccarini, c'è una rissa social praticamente su Twitter perché Raffaella Carrà aveva praticamente dato ormai per ingaggiata la Cuccarini nel suo programma forte forte forte, poi i produttori dopo le hanno detto no guarda non c'è più posto, non se ne fa niente, e allora la Cuccarini ha detto non ci siamo viste per 30 anni, spero di non rivederti per i prossimi 30, però Raffaella Carrà si scusa, dice avrei dovuto dirglielo io, ecco giusto per metterci anche un po' di costume. Non so se Alberto Rioli sia praticamente inquietato da quest'ultima notizia, Alberto, ma... Buonasera, no, non particolarmente. Vice direttore del Sole 24 Ore, abbiamo che ben altro di cui inquietarci, perché ancora una volta tocca usare un'espressione che è stata, che è inflazionata, che è abusata negli anni, ma che rende sempre bene, in particolare in queste settimane, un po' il clima, l'autunno caldo, no? Con questa emergenza sociale piuttosto diffusa, tutto a partire dalla crisi che ha investito l'Europa, ma in particolare l'Italia. Abbiamo sentito che addirittura la Grecia in questo momento ci batte. Le proteste dei lavoratori che perdono, rischiano di perdere il lavoro, in testa su tutte quelle dell'asta, anche se sembra che arrivino delle notizie così di mediazione. Gli scontri a Roma nel quartiere di periferia di Tor Sapienza con la rabbia popolare, anche se non di tutti, che si scarica contro gli immigrati, perché la vita diventa difficile per tutti, le tante persone esasperate dai danni provocati del maltempo, tanto e dall'incuria umana, anche tanto che ieri il capo della Protezione Civile, Gabriele, ne abbiamo parlato anche col sociologo Magatti, ha detto: i fatti di Carrara, l'esasperazione che ha portato la gente a occupare il municipio, si sta diffondendo perché la gente è stanca e in sofferenza permanente, o diamo una risposta subito o ci perdiamo per strada un pezzo di paese. Intanto poi avete visto lo sciopero sociale di oggi, quindi una possibile risposta di quelle che evoca Gabrielli potrebbe essere il Jobs Act, ma questa manifestazione di oggi era soprattutto contro questa riforma del lavoro. Alberto Rioli. Sì, la cosa preoccupante è che si sta saldando su alcune parole d'ordine che poi io credo non tutti poi comprendano appieno, la protesta sociale con quella più strettamente e classicamente sindacale, diciamo così. È una miscela, lo si è visto anche storicamente, piuttosto pericolosa da gestire con grandissima cautela, e lo dico soprattutto da parte dei leader sindacali che in questa fase, diciamo, stanno un po' lisciando il pelo a questo tipo di proteste. E però è anche vero che è un'indicazione di un malessere che è anche molto più di un malessere, che merita il rispetto di tutti obiettivamente. È chiaro che stiamo facendo i conti con il portato di una recessione che non ci abbandona. I dati che abbiamo visto oggi nel quadro europeo ancora una volta confermano che l'Italia è purtroppo saldamente fanalino di coda nella performance del prodotto interno lordo, e quindi stiamo arrivando a reiterazione sociale di una crisi economica che è stata la più devastante mai conosciuta nella storia economica più o meno recente, diciamo così. Purtroppo. Alberto, ieri c'era qui ospite a Effetto Notte Alfredo Dattorre, della minoranza PD, uno dei più critici nei confronti di Renzi, che ieri, dopo quell'accordo, quell'intesa che c'era stata all'interno del PD, ne parlava positivamente di questo passo, dicendo: ah, finalmente Renzi ha capito che la legge deve essere cambiata in Parlamento, che non si può porre la fiducia, che l'articolo 18 era una sciocchezza attaccarsi a questo argomento. Sentiamolo. Ma l'accordo per il momento è di metodo, è positivo, nel senso che il governo voleva dire che non si poteva toccare nulla, che il testo del Senato era inemendabile, che per la seconda volta il Parlamento avrebbe dovuto votare una delega in bianco, invece alla fine poi Renzi ha capito che non poteva essere così e ha accettato il principio che il Parlamento, la Camera può intervenire, può cambiare la delega del Senato, che non ci sarà la fiducia sullo stesso testo del Senato, una modifica sarà probabilmente quella che ci è stata spiegata prima, ce ne saranno delle altre, ci saranno soprattutto, che è la cosa che sta più a cuore a tanti di noi, risorse aggiuntive sugli ammortizzatori sociali. Io credo che Renzi abbia creato un problema inutile, perché guardi, ad agosto, quando Alfano diceva dobbiamo cancellare l'articolo 18 e Renzi diceva giustamente allora che l'articolo 18 è l'ultimo problema dell'economia italiana, nessuno prendeva sul serio Alfano, che per motivi puramente di propaganda riprendeva una vecchia bandiera di Berlusconi e di Sacconi. Poi improvvisamente Renzi ha cambiato linea, ha deciso da un giorno all'altro di andare su questa posizione e adesso deve gestire questo problema con l'NCD, mi auguro che ci riesca, ma guardi che non c'è nessuno che realisticamente crede che sia la modifica dell'articolo 18 la condizione per far ripartire l'economia italiana. Alfredo Dattorre, la posso fare arrabbiare? Sì, intanto succede in questo nel senso che vedo un'agenzia di questi istanti, tutte con i pallini rossi, tutta stellata di quelle proprio importanti, le dichiarazioni che fanno rumore. Jobs Act, Renzi dice dal 2015 l'articolo 18 sarà superato. Ecco, questo era un'agenzia che era uscita, Alberto Rioli, proprio ieri sera in chiusura di trasmissione, però oggi proprio dalla viva voce di Renzi sentiamo questa conferma. Ci sono tantissime co-co-co-co-pro, tante forme contrattuali, andiamo a ridurle. C'è anche un meccanismo, quello dell'articolo 18, che va finalmente superato e che saremo in condizioni di superare a partire dal 1 di gennaio. Quindi sì, partita chiusa, e adesso il Parlamento nelle prossime ore voterà, e poi dal 1 gennaio almeno chiarezza di regole per i nostri imprenditori e per i nostri lavoratori. Il Jobs Act, la riforma del lavoro, non è un modo per togliere diritti a qualcuno, è un modo per togliere gli alibi, non per togliere i diritti. Vedrete che sarà una cosa che funzionerà molto bene. Quindi sembra che fosse una pia illusione quella della minoranza PD sull'articolo 18. Alberto, scusami, abbia ancora un po' di pazienza, perché su questa cosa, era un accordo vero, non vero, eccetera, risponde a modo suo, Landini. Da quello che io ho visto, quell'accordo lì mi sembra una presa in giro. Forse serve a qualche parlamentare che l'ha fatto per continuare a fare il parlamentare. Non serve certo ad estendere i diritti e ad impedire i licenziamenti. Insomma, tema estremamente dibattuto che infuoca gli animi, però appunto non si capisce cosa Renzi fa, un passo indietro, un passo avanti, o è un giocatore straordinario di scacchi che magari qualcuno non capisce. Ma no, secondo me siamo impelagati in una schermaglia di tipo diplomatico. Nei contenuti effettivamente non cambia nulla, ma rispetto alla formulazione iniziale, Renzi ha concesso alla minoranza del suo partito il fatto che verrà cambiato il testo della delega, esplicitando meglio le forme che riguardano le tutele crescenti e quindi l'applicabilità o meno dell'articolo 18 per i licenziamenti discriminatori e disciplinari, come sappiamo. Questo tipo di formulazione servirà anche poi a Renzi, al suo ministro, al suo governo, a evitare il ricorso di eccesso di delega che l'opposizione, soprattutto quella di sinistra, stava preparando, perché appunto non c'era fino adesso nessuna indicazione del tema articolo 18 nella formulazione attuale della delega, e quindi questo tipo di correzione consentirà anche a Renzi stesso di evitare un guaio a sinistra, diciamo così. Dall'altra parte sta enfatizzando questa questione della razionalizzazione delle forme contrattuali di ingresso al mercato del lavoro come conquista appunto da parte della minoranza del suo partito. Non a caso ha accentuato molto questa concessione, diciamo così, nella riformulazione della delega, perché servirà alla minoranza del suo partito per poter dire che ha avuto ragione della testardaggine iniziale del Presidente del Consiglio. Però sono piccole cose in realtà. La riforma è congegnata, si spera che vada in porto prima possibile. È vero che l'articolo 18 nella nuova modulazione non servirà a creare posti di lavoro, ma non servirà nemmeno a licenziare di più le persone che comunque non sarebbero state in ogni caso licenziate. Quindi servirà però a fare chiarezza su un'idea di Italia un po' più moderna, che intende seguire una via di semplificazione nei rapporti per la creazione del posto di lavoro. L'hai detto, Alberto, un'Italia moderna, ma guarda, c'è proprio un Camusso che ti risponde. Paura che la nostra sia un'idea di conservazione. Noi gli diciamo che la modernità è quella di avere un lavoro libero e di qualità, che la modernità è tornare ad avere un paese che non affida alle imprese che cosa bisogna fare, ma che lo decide come governo. Questo, insomma, è il puzzle che sta venendo da questi interventi, e Alberto Rioli così no, costruito posso al momento. Dire, cioè, la modernità è arrivare in un paese dove non c'è più la finzione dei diritti che hanno creato quasi il 13% di disoccupazione e il 43% di disoccupazione. Ma siamo sicuri? Giovanile. Siamo sicuri che siano proprio i diritti che abbiano creato la disoccupazione? Ma sì, ma non i diritti, questo tipo di ingessature che poi ti costringono ogni volta che cambi una cosa ad andare davanti a un giudice, a stare impegolato in contenziosi che durano anni e non hai mai chiarezza di quello che devi fare. Non è solo un paese, soprattutto un paese in declino, e quindi anche tutto il resto, no, l'industria, ma, politica fammi industriale. Completare, sicuramente sì, ma la cosa, però, l'altra cosa che è contestabile alla Camusso è in questo momento è dire che non è modernità quello di immaginare il futuro, è modernità è mettere al centro della strategia della politica economica gli investimenti. Questo è il tema, e il resto dovrebbe essere tutto di contorno. È fondamentale che anche l'interlocuzione sindacale si alzi di livello, diciamo così, nel contestare alle imprese che non lo fanno gli investimenti, di andare a discutere su come si fa a aumentare la produttività. E uno degli elementi fondamentali dell'aumento di produttività è l'investimento da parte dell'imprenditore. E me la chiami, ancora la Camusso, prego, la prossima. Ma non si può continuare a tassare in basso e non avere delle risposte, e quelle risorse le si prendano, le si traducano in piani concreti di lavoro. E se qualcuno ha bisogno, che gli diciamo per fare che cosa? Cominciamo a mettere in sesto questo paese, cominciamo a fare delle opere pubbliche che permettano ai cittadini di non aver paura di trovare la casa allagata, così come ritornino ad avere un'idea di paese accogliente, in cui c'è la cultura, in cui c'è la possibilità di vivere positivamente. tante cose si potrebbero fare col lavoro, ma bisogna avere il coraggio non di colpire chi è debole, ma di guardare a chi i soldi ce li ha e non li ha investiti per il paese. Parlavi di investimenti, Alberto Rioli, ti ho fatto rispondere da Susanna Croce. Mi dispiace questa botta risposta, diciamo così, senza la persona presente, ma comunque diciamo è vero, nel senso serve un piano di investimenti anche pubblici e sarà fondamentale il piano di investimenti pubblici di caratura europea, che dovrebbe proprio servire a mettere in campo energie che possano servire a creare grandi infrastrutturazioni, grandi progetti anche su scala continentale, di modernizzazione del paese, penso alle reti e quant'altro. È fondamentale avere un approccio diverso alla manutenzione del territorio, però dico anche che purtroppo anche nel passato sono stati fatti esperimenti di lavori pubblici di questo tipo, pensiamo ai lavori socialmente utili, ai forestali calabresi che sono più di tutti i forestali della Francia. E non mi pare che abbiano sortito, come dire, una manutenzione del territorio effettivamente efficiente, quindi bisogna fare sì investimenti. E perché dietro ci sono sempre altre logiche, certo. Dietro ci sono le clientele, ci sono i sottogoverni, ci sono le raccomandazioni, ci sono i serbatoi di voti, di una politica sbagliata, soprattutto su certi luoghi, certi territori, con certi potentati. È tutto da cambiare obiettivamente, e da questo punto di vista a me pare che in termini così perlomeno di slogan per ora o di intendimenti strategici il governo Renzi ci stia provando, bisogna ammetterlo. Vediamo allora qualche risposta invece delle ascoltatrici e ascoltatori a vedere se il governo ci sta provando. Roberto da Brescia: il governo non ha la più pallida idea di come vive la maggior parte del popolo italiano. Poi invece c'è Nicola che scrive tra pagina Facebook di Effetto Note, il 349-238-6666, dice: Nicola, siamo 60 milioni in Italia, anche se scendesse in piazza 1 milione di persone, siamo sicuri che tutti gli italiani siano contro il governo? Poi un altro messaggio: protestano contro quelli che hanno votato e continueranno a votarli, Maurizio 5 Stelle, si firma così. E poi moltissimi altri messaggi. Vabbè, Fulvio parla di Marino, dice: è come la sua panda, sempre al posto sbagliato. Qui un po' di ironia. Carlo: mi può dire perché chi fa un furto di un prodotto per mangiare del valore di 10 euro va a processo per direttissima e condannato? Nato, chi ruba milioni di euro, forse si faceva clini, ma bisogna ancora vedere, insomma, per ora rinviato a giudizio, con prove inconfutabili vengono indagati e processati dopo parecchi anni, spesso pene sospese. Quanto può durare questa ingiustizia, a proposito insomma di iniquità generale che poi provoca, Alberto, no? Sì, diciamo che sono i messaggi, credo, di uno stato d'animo diffuso nel paese, sì. Cioè una rabbia puntiforme, diciamo così, a macchia di leopardo, che supera le classi sociali, supera le associazioni, supera tutto, e che però non si risolve, torno su un tema che a me è caro, con l'ideologia della disintermediazione sociale, che è una delle cose che muove la strategia del governo Renzi, cioè non è dicendo che i sindacati e le associazioni di imprese non servono a niente. Quindi non sei d'accordo con Renzi in questo? In questo assolutamente no. Secondo me è fondamentale invece consolidare il rapporto con chi rappresenta interessi grandi, visibili, poi in modo dialettico, naturalmente contestando, cercando di arrivare ad accordi, ma se poi arrivi all'accordo, quando hai discusso con questo tipo di rappresentanze, soprattutto se riesci a portare l'agenda su temi alti, la fiducia si sparge, la tenuta delle intese è più solida, si evitano le fughe nella demagogia e nel conflitto per il conflitto, che sono un classico di quando non funziona la rappresentanza, c'è sempre la deriva massimalista, neoegoista, conflittuale per il conflitto purché sia, e che quella è la più pericolosa di tutte, perché non è governabile. Alberto Rioli, ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana. Grazie ai tuoi ascoltatori. Ciao Alberto. Ancora molti vostri messaggi, adesso dobbiamo prenderci assolutamente una pausa, continuiamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, Roberta Giordano. Adesso parleremo anche di altre cose, ma vedevo, a proposito di risposte opportune o meno che il governo sta dando a questo diffuso malessere sociale, c'è per esempio Mario che dice: no, in realtà si sta creando una polveriera sociale, cioè quei cinquantenni che erano stati esodati assegnando loro ammortizzatori sociali da fame. E poi Corrado dice: sì, tantissime risposte riassumibili in bla bla bla bla bla, e poi altre, diciamo, più argomentate risposte, ma vi riassumo le notizie più importanti del giorno. Sciopero sociale, la mobilitazione in 25 città, caos, tensione, scontri, 15 feriti tra le forze dell'ordine. A Roma, Marino contestato a Tor Sapienza sul teatro delle violenze antiimmigrati, lui commenta via il degrado. Crisi, l'Italia resta in recessione, il PIL è ai livelli del 2000, persino la Grecia ci batte. All'Italia l'Unione Europea dà il via libera all'ingresso di Etihad, il maltempo, ci sarà una nuova ondata dopo la tregua e poi il calcio, all'Inter torna Mancini, via Mazzarri, con lui dice Tohir, possiamo tornare grandi. E parliamo adesso del G20, qualcosa che si sta preparando. Renzi è già partito, dovrebbe già essere nel paese dei canguri, c'è Sergio Nava che mi pare che dica di sì. A quanto pare, a sì. Quanto pare, ci sono ancora notizie ufficialissime delle agenzie, non mi sembra di vedere del suo arrivo. Ma arriverà. Penso che sia lì per arrivare se non è già arrivato. Quali sono gli obiettivi? Perché si fa questo G20 in Australia? Ma, diciamo innanzitutto il G20 ormai è un forum, un summit di economie mondiali, delle 20 principali economie mondiali, rappresentano l'85% del PIL planetario e rispetto al G8 una forma più allargata e forse anche un po' meno coesa del più importante G20 che si ricorda in memoria d'uomo. Si tenne a Londra nel 2009 quando la crisi veramente stava mordendo e ci fu anche un impegno molto forte a rilanciare l'economia. Ebbene, allora questo G20 che si tiene in Australia per una questione di rotazione dei paesi nasce sotto il segno di quella che la presenza di turno australiana vorrebbe rendere il piano d'azione per rilanciare l'economia a livello globale attraverso la leva degli investimenti, la partecipazione del capitale privato. L'obiettivo è far crescere l'economia di almeno il 2% nei prossimi 5 anni. Assomiglia un po', devo dire, come linee guida a quello che sta cercando lentamente di fare l'Europa, il famoso piano Juncker. Se l'Australia non se la dovrebbe passare malissimo, no? In questo momento il problema è l'Europa. Gli occhi sono puntati sull'Europa. Prima, Roberta, tu hai parlato del PIL italiano. Quello europeo se la passa un po' meglio secondo i dati dell'ultimo trimestre, ma è un più 0,2%. La Germania è cresciuta dello 0,1%, la Francia dello 0,3%. Insomma, è un alito di vento. Ovviamente l'Italia se la passa peggio, però gli occhi del mondo sono puntati su di noi, perché gli Stati Uniti, pur tra difficoltà, sono tornati anzi alla crescita. Le economie dell'Est comunque... Era il Fondo Monetario Internazionale che in questi giorni ha detto: se l'Europa non si ripiglia... Esatto, il grande malato del mondo in questo momento è l'Europa, e quindi gli occhi sono sull'Europa. Europa che si presenta con un'agenda in realtà non solo relativa al lavoro e alla crescita, ma anche alla questione fiscale, perché la Commissione Europea, che rappresenta tra gli altri l'Europa, ha un grosso problema. Il suo presidente, neopresidente Juncker, finito nell'occhio del ciclone, nello scandalo per il cosiddetto LuxLeaks, cioè questo regime di favore per le multinazionali che Lussemburgo per diversi anni ha praticato. Allora, per reazione, quello che Juncker porterà al G20 invece è innanzitutto un rafforzamento dello scambio automatico dei dati e poi anche un rafforzamento del cosiddetto tax ruling, cioè fare in modo che se un paese adotta politiche particolarmente favorevoli a delle multinazionali, facendo loro pagare meno tasse sui profitti, questo si sappia e insomma si cerchi quanta più trasparenza possibile, in modo da evitare l'evasione fiscale, che sappiamo è un grande problema non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, forse un po' più da noi. E altri due temi che volevo sottolineare in agenda sono quello del clima. Dopo l'intesa tra Stati Uniti e Cina, tra Barack Obama e Xi Jinping, Obama ha annunciato che varerà un fondo da 3 miliardi di dollari per aiutare i paesi più poveri, sottosviluppati, nella lotta al cambio climatico. E poi un altro tema interessante, poiché c'è anche Vladimir Putin, non dimentichiamolo, si è già fatto sentire oggi dicendo: attenzione, le sanzioni euroamericane contro la Russia danneggiano l'economia globale. Non c'è solo una questione economica, c'è anche una questione politica e anche di, se vogliamo, di difesa. Quando parliamo di Russia, ricordiamo che in Ucraina insomma la tensione è tornata molto alta, quindi il rapporto, quello che succederà tra Putin, che tra l'altro domani vede Renzi in un bilaterale, Putin e comunque l'Europa e l'America, sarà abbastanza una cartina di tornasole per capire quello che ci attende nelle prossime settimane. Attendiamo. Grazie Sergio. Ciao Sergio. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccole velocemente, lo sciopero sociale di oggi in 25 città, proteste, scontri, il scontro del Jobs Act in particolare, la CGIL contro Renzi, ma c'è l'accordo intanto sulla riforma del lavoro col nuovo centrodestra. Marino, sindaco di Roma, è stato contestato nella periferia di Tor Sapienza, Buffone va via, hanno detto al sindaco, e lui ha detto basta, bisogna levare il degrado da queste zone. L'Italia, abbiamo sentito, resta in recessione, il prodotto interno lordo è ai livelli del 2000, persino la Grecia va meglio di noi, e poi il cambio all'Inter tra Mazzarri e Mancini. Europa 24 notte. Si diceva che l'Europa è il sorvegliato speciale, ora parliamo appunto di Europa, lavoro, innovazione, capacità di cambiamento per un possibile futuro di questo continente. Dal Copenhagen Institute for Future Study arriva un monito per l'Europa che ogni giorno perde posizioni in termini di competitività. Non ci sono scorciatoie. Se il sistema sta fallendo non è solo per la crisi, è perché non sa cambiare. Metà delle società che avevano successo negli anni 90 nel giro di 10 anni hanno perso il loro appeal sul mercato perché non hanno saputo attuare un cambiamento e sono rimaste ancorate a modelli superati. L'economista Casterbeck del Copenhagen Institute for Future Study, un istituto che collabora con l'Unione Europea per mettere a punto strategie economico-sociali, dice di puntare sull'occupazione giovanile e sull'innovazione in ogni campo. Uno degli aspetti più caratterizzanti dell'Europa di oggi è la disoccupazione. È un problema allo stesso tempo europeo e globale che si rafforzerà nel futuro. L'innovazione è infatti il cardine della strategia dell'UE 2020 per favorire la crescita e creare occupazione. I paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e sviluppo, con l'1% dei finanziamenti che dovrà arrivare da fondi pubblici e il 2% da investimenti privati, con l'obiettivo insieme di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Peter Marsh, editorialista del Financial Times, dice che l'Europa si trova di fronte ad una nuova rivoluzione industriale. Il futuro è, in poche parole, tre cose per quanto riguarda il settore della produzione. La nuova rivoluzione industriale, che significa fondamentalmente maggiori connessioni con parti diverse del mondo, ma in tutto il mondo, verso la tecnologia, e maggiore personalizzazione sia della produzione che quindi dei prodotti. Ovviamente in questa nuova rivoluzione industriale ci saranno molte, molte opportunità per quei paesi e quelle aziende che saranno sufficientemente intelligenti per trarne vantaggio. Per attuare questa rivoluzione industriale, l'Unione Europea può contare sull'EIT, l'European Institute of Innovation and Technology, con sede a Budapest, che ha l'obiettivo specifico di integrare il triangolo della conoscenza costituito da ricerca, innovazione e istruzione e rafforzare la capacità di innovazione dell'Unione a affrontare le problematiche della nostra società. Ha un budget di oltre 2 milioni e mezzo di euro, il 3,52% del budget totale di Horizon 2020. Ora l'Istituto Europeo di Tecnologia e Innovazione aggancia il treno dell'Expo 2015 e sbarca a Milano con un nuovo centro di innovazione che funzionerà da satellite del nodo italiano di Trento, già operativo da 3 anni. L'obiettivo immediato sarà quello di sfruttare la vetrina dell'esposizione universale per le attività che EIT gestisce nei settori della vita urbana e mobilità, spazi intelligenti e cloud del futuro. Innovazione, occupazione, tecnologia, cambiamento, reti, sono questi i punti su cui l'Europa si gioca la partita del futuro. Silvia Bernardi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Mentre continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, torniamo sulle questioni casalinghe e sul calcio con Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Roberta, buonasera. Giovanni, allora c'è stato questo cambio come allenatore dell'Inter, voluto da Tohir, via Mazzarri, arriva Mancini. Ti voglio chiedere, prima poi ci parlerai di Mancini, ma che percentuale di incidenza hanno sui successi o sulle sconfitte di una squadra gli allenatori o i giocatori? Cioè, qual è la percentuale? Hanno una grande incidenza i giocatori certamente, ma anche l'allenatore. Il problema secondo me è che qui non parliamo di sconfitte. L'Inter è lì più o meno allo stesso livello del Milan, che è avanti un punto, per intenderci. Diciamo che se Mazzarri va via non è tanto per le questioni di campo, non è tanto per quel punticino in meno rispetto al Milan, per quella difficoltà, è perché evidentemente negli ultimi mesi si era creato un clima di non empatia con tutto l'ambiente, per ambiente intendo soprattutto i tifosi, i fischi, gli hashtag lanciati sui social, che oggi oramai fanno tendenza, poi hanno risonanza sui giornali, quindi hanno un certo peso. Mazzarri va via per tutto quello, perché se fosse stato per i risultati probabilmente a quest'ora sarebbe ancora l'allenatore dell'Inter, con almeno un altro paio di settimane per provare a riportare l'Inter un po' più in alto. Quindi più di tutto furono i tifosi, insomma, che incisero nel cacciarlo. Senti, che ritorna, quello di un ritorno Mancini, no, all'Inter? Beh, quello di Mancini è un ritorno importante, e questo conferma tra l'altro l'incidenza della piazza in tutta questa vicenda, nel senso che fra mille allenatori che poteva scegliere, Doir alla fine ha scelto quello più costoso in assoluto, perché tutto insieme è un'operazione da 35 milioni di euro, che non sono bruscolini nei prossimi due anni. Mancini è anche il nome capace di ricompattare tutto l'ambiente. Mancini è stato all'Inter fino al 2008, ha vinto 3 scudetti, ha vinto 2 Coppa Italia, ha vinto una Supercoppa, è l'allenatore che ha consegnato poi a Mourinho una squadra che perfezionata ha vinto tutto in Europa e nel mondo. È un allenatore che si è sempre dimostrato molto interista, che non si è mai tirato indietro anche di fronte alle polemiche contro la Juve sulle questioni arbitrali. Insomma, è un po' un uomo società ed è certamente un uomo che è molto riconosciuto dal popolo interista, quindi da questo punto di vista è un usato garantito che torna, e credo che per lui non valga il concetto della minestra riscaldata, che non sempre dà buoni risultati. C'è da dire però che Mancini era abituato a un'altra Inter, quella con Ibrahimovic, con Giulio Cesar, con Maicon, con ben altri giocatori. Questa è un'Inter decisamente meno forte sul piano tecnico. E l'ultima cosa, Giovanni Capuano, vedevo tutta stellata l'agenzia di Conte, l'allenatore nazionale, che convoca altri 14 giocatori per l'amichevole che ci sarà contro l'Albania la prossima settimana. C'è anche Acerbi, sì, che ha lottato contro il tumore. Questa è una cosa, Acerbi è una storia bellissima, così come bella è la storia di questa amichevole che l'Italia farà martedì sera a Genova contro l'Albania. Doveva essere giocata a Parma, si va lì per raccogliere fondi per coloro che hanno avuto problemi e danni economici per l'alluvione. C'è da dire che era tutto obbligato, perché l'Italia gioca domenica sera a San Siro contro la Croazia la partita di qualificazione, devono passare almeno 72 ore prima che la FIFA dia l'opportunità di giocare un'altra partita. In questo caso l'Italia ha ottenuto una deroga, a patto che qualunque giocatore giochi domenica sera anche solo un minuto non possa nemmeno essere portato in panchina martedì, quindi di fatto Conte è stato chiamato a raddoppiare la sua nazionale con un'altra serie di convocazioni, ne ha fatte 14. Grazie Giovanni Capuano. Ciao. Grazie a te. Ciao, buona serata. Sarà una buona serata, ma sarà anche un buon fine settimana e tutto il restante, caro colonnello Mario Giuliacci. Ciao Roberta, buonasera. Purtroppo no, come ormai si sente dire, come la protezione pure civile ha avvertito, come le mie previsioni del resto confermano, domani sarà una giornata purtroppo ancora molto, molto difficile, soprattutto per Nord Italia, perché pioverà su tutto il centro-nord e sulla Sardegna, ma queste piogge saranno forti sulla Liguria, sul Verbano, sul Varese, sui laghi lombardi, temporali su Liguria, Toscana e Lazio. Domenica migliora per fortuna però le regioni di nord-ovest, sull'Emilia Romagna, piogge ancora sul resto d'Italia, compreso il meridione, piogge forti domenica sulle Alpi centro-orientali, sul Friuli, Venezia Giulia, Sardegna, Alta Toscana e Lazio. E più domenica anche l'acqua alta Venezia intorno a 105 centimetri nel primissimo mattino. Insomma, soprattutto domani è una giornata da seguire, una giornata molto difficile, soprattutto appunto dicevo per alcune aree del nord Italia, che guarda caso sono quelle che già sono state funestate nei giorni passati da piogge piuttosto violente. Colonnello, abbiamo ancora pochi secondi perché tu ci dica che la prossima settimana finalmente splenderà il sole, così? Diciamo lunedì, martedì ancora purtroppo insistono le piogge, poi forse da mercoledì ritornerà il sole, spero per molti giorni. Lo spero anche per te, caro colonnello Mario Giuliacci, buon tempo intanto. Ciao colonnello. Grazie. Il resto su www.meteogiuliacci.com. www.radiosport.it. Bene, noi adesso ci sentiamo giusto tra qualche istante. Vi ricordo che poi qui, dopo che ci lasciamo noi con l'effetto note, c'è qualcos'altro di molto interessante, c'è Enrico Pagliarini con 2024, la tecnologia praticamente a portata di mano. A tra poco.